dietro la Zeven Plint, cioè il maggior azionista di Modena Capitale, c'è lei? Questo si chiede il Corriere. Devo dire che intanto non è il maggior azionista di Modena Capitale, quindi è già un errore di base. Sì. Secondariamente, io sono pronto a farle vedere la mia dichiarazione diretta, dove vedrà che le mie partecipazioni italiane ed estere, tutte, sono da 12 anni dichiarate nel quadro RW all'evidenza di tutte le autorità tributarie, bancarie, e io non ho mai ricevuto per nessuna mia attività neanche un rilievo di un euro. Quello che secondo me interessa alla gente, e deve interessare anche ai media, ed è probabilmente stato scritto male con un intento, diciamo, non troppo lusinghiero nei miei confronti, è essere assolutamente certi che tutte le mie attività economiche sono in chiaro. Sono sempre state dichiarate nelle dichiarazioni dei redditi, con le imposte tutte pagate, senza mai un euro di evasione. Non c'è nessuna attività mia che abbia un regime fiscale da paradiso fiscale. Io non ho nessuna attività, ho una serie di società in Italia e anche all'estero che sono proprietarie di beni e che sono tutte dichiarate al fisco italiano, sulle quali io pago tutte le imposte di ogni generatore senza nessun vantaggio fiscale. Semplicemente per il fatto che, trattandosi di proprietà in nazioni estere, sono intestate a società estere della nazione.